cazzo di cosa. Ebbene, pompetta! Faccio appena bucio abbastanza forno, il forno lì, che ce ne avevo un po' di fretta e me l'ho fatta. Per domani, allora ci brucia il forno, per la cucina appena, ecco domani è pronta. Meglio così, domani io invece ho pennette con il sugo di cinghiale, così quando torno si fa via, si fugge il cane, cazzo. Non via con il guru. No, ma se la cosa che l'ho mangiato, quando ho fatto la cena, la notte sono andato sino a mezzanotte e mezzo, ho dato l'acqua in bagno perché facevo le scariche in cameretta, su. Allora andiamo, partivo in bagno, partivo, e gli ho fatto un fiaco di tavola, no, mi sa che mi cano addosso, e mezzanotte e mezzo, un giro, infatti ho dormito in cameretta, se no Simona sarà fuggita quel minimo dal letto. Questa l'ho regalata un amico, me l'ha regalata, dice fatela fare perché io non lo so fare, tu ci mi hai la verità, l'ha fatto mio cognato, il cuoco, ma non pensavo che faceva una cosa del genere, cioè roba così puzzolente, neanche lo spezzatino lo fa. Quindi è fianco il guru, veda. Ok, te sto dicendo. Mi detto, se vuoi vincere, perché non hai dormito in camera con me? Vai, gli ho detto, meglio niente, gli ho detto. E perché? Perché gli ho detto, cioè ti ho detto così, dubbi che facciamo, ho detto, ti sei fuggita tu e il cane, ho detto, camera da letto. Domani mi faccio il resto, mi faccio per niente. E così domani sera, tutti, l'importante è che non l'abbia mangiata prima del 28, adesso se è andato a fare il vaccino e aveva fatto fuggire la fila, aveva fatto fuggire. Mamma mia, aspetta che sono un attimino giù a fare una cosa. Facci, fai il gavettone d'acqua. Popò ti sei trodiato. Cazzo, la cadena di cinghiale, guarda, è una cosa allucinante, pensavo che era così. Peggio dello spezzatino lì. Cinghiale è buono. Trodiatola. Che io sono stato tutta la sera. C'è puzzette che togliamo fuori. Ma con gai. C'è presente la, quando mangi la carne macinata? La stessa cosa. Il cinghiale siamo già cucinati, non sapevo cucinare. Ho fatto il ragazzo di Giovanna che lavora lì a Pizzicotto, che è cuoco, capito? Ha fatto lui, ha detto, però tu hai detto che io non lo so fare, non so mai come si mette, cosa si mette, cosa non si mette, e l'ha fatto, era veramente buono. Però ripeto, bisogna metterlo a bagno, levarne il coso, io un altro professore residuo, io comunque non sto facendo esercizio. E poi bisogna saperlo cucinare, se non sai cucinare un casino. Io già lo so, infatti, l'ho fatto fare a lui per quello. Me l'ha dato il giorno prima di Natale, un amico. Dice, questo è per te, mi ha fatto. Antone, dice, me l'ha dato anche a me una busta, dice, una te l'ho dato a te. Gli ho detto, cos'è? Mi ha fatto il cinghiale, ha detto. Vabbè, tu non l'ho mai assaggiato, assaggiamo anche questo. E infatti già l'ha fatto mio cognato e già era buono, l'ha assaggiato anche Giovanna. Capito. Sì, vabbè, anche io ogni volta l'ho mangiato, col sugo è buono, cavolo. E col sugo l'ha fatto, infatti, cubettini come lo spezzatino e così, ma un bijou era. Solo che l'unica cosa era quella, non pensavo che faceva un effetto del genere di cercare a casa che mi riusciva a sedere e gli agivi tu, non la buona. Tutt'aria. Grazie. E non si è fuggito rogane il muro. No, vediamo qui. Qui non ci ha dormito per niente il cane. C'è neanche passato vicino in camera, figurati, è rimasto in camera da letto. Qua di sotto viene ogni tanto. Capito? E fa. Prima sta un po' così, ma la covina, no? E poi sta. Dopo che quando si stufa va di nuovo per la Simona, quindi. Andiamo dove andiamo? E il cane, lo faccio io, è fatto così. Quando siamo lì assieme, nella stessa camera, dentro al letto, sta sempre girando a destra e a sinistra. Figurati. Uia. Ciucucciù. Piano, leggo. Cazzo, già si scende. Lascia vedere. Hola! Cos'è il giuccio già? Hola! Lascia vedere. Vatti! Hola! Hola! Andava bene. Ah, voglia che va bene, voglia. Già si fuerte. Cappa! Pensavo che non fosse un mettere a zitto. No, adesso già riesce che è passato qualcosa. La volta già era mattina sera, poi sempre comprando con 500 watt. Perché avevamo 20 cibili nell'arco dei circondari, era un casino. Capito? E allora mettevo a pompare. Adesso ormai siamo tre gatti, cosa vuoi pompare? Poco da pompare ci abbiamo. Gabba. La legge del più forte erano. Adesso c'erano stati in quei tempi lì, allora mi aveva bocciato un bel amplificatore in occhi. Avessi forse di gradarsi. Per periodo lì non facevano parlare Alghero con Claudio. Gli arrivavano 9:20 di Alghero, Claudio arrivava oltre 9:20 di lui. Gli dava un bel fastidio perché loro parlavano su 15, io su 14, erano sempre lì in quel canale. E pigliavano splatter, capito? Chi era avanti? Che se non vai con un guru non vai. 24 anni non vale, manco di catena. Segnale quasi un'ora, libera. Ah, infatti, devo andare. No, qua era 9:10 era. Ma non è zona tua, senz'altro, di vicino. Deve essere lì al centro storico con qualche portatile. No. In zona di latte dolce, fregattene tu. Ah, non ho più sentito nessuno. No, io mai ho sentito l'altro giorno. La verità, mai in PMR. Boh, non lo so. Vabbè, di solito sono sempre o su 10 io, o su 14. La dolce parla sul canale 23. Di solito sono sempre lì, sono. E infatti, noi siamo sempre qua su 10. Su 5 ormai i camionisti non vede più, non si sono più che. Lo sento se sono 2-3, non di più. Prima era pieno la mattina dei camionisti. C'era la fila, c'era. Adesso, vai a trovare un camionista con la macchina, non lo senti più. Ma già non so già. E ormai usano quelle cipittate, capito? E quindi fanno prima. Mamma mi va una cagata, questo ci fai tolto. Vabbè, va bene, basta che parlino tranquillamente la caglia da sasso e si sentono, capito? Il problema è che si scarica il telefono, te lo imballa, che una volta che lo usi quasi un'oretta, cosa del genere, per buttare giù la batteria, me. Quindi il discorso è quello lì, cioè è bello come cosa, come applicazione, però vorrebbe modificata, che non puoi usare un telefonino con la batteria da 1500 mAh per poter parlare, capito? E se no te la butta giù, te la imballa subito. Dopo un mese devi già la batteria. Devi stare sempre con caricatore agganciato. Ma già mi durava, ma a me la sacrifici continentale. La verità è un po' sociale, perciò non mi piace nulla. Sì, vabbè, peccato mi. I napoletani si mettono a cantare, i siciliani sono quelli fatti loro, manco ti guardi dentro, quindi a un certo punto una volta di 30-40 persone, e quando parla è buia. Ma l'unica cosa che mi divertivo era quando c'era quel ragazzo che aveva la voce da donna, solo quello, Tamburello, e lo facevano a pezzi, lo facevano. Ah, se non ti vai a passare al forno, tu. Scappa! No, già la vada a discutare, da oggi si mangia domani. Col prosciutto l'ho fatta sempre. E mi sa che ne viene uno in frigo. Mi sa che Maria me la può zaricare, ma domenica, tanto non posso uscire. Lunedì esco, però fa il tampone. Se sono negativo sono libero, altrimenti nada. Scappa. Vedi un po'. Adesso vediamo. Scappa. Ma io già in freezer ce l'ha. Eia. Yeah. Non me la buono in freezer, no, io la faccio e me la mangio in domani. O se no il giorno stesso. Vabbè, ma ne abbiamo fatto quando c'era mia mamma a pranzo a Natale. C'era mio fratello, mia cognata, abbiamo fatto una da 6. E ne è uscita una da 6 e una da 4, capito? Ho capito. Come teglie per non rompersi uso le cookie extra, le conosci? No, io uso le teglie quelle in alluminio, vanno benissimo. Quelle, usa lì, però io utilizzo quelle che sono robuste sotto, capito? Che sono più dure delle altre. E poi già quando la faccio io ti faccio assaggiare la mia. La mia piace, quella che faccio io. Ma sicuramente noi abbiamo due modi diversi come farla. Per esempio tu come la metti la besciamella? Direttamente dentro il sugo, oppure la metti mano a mano che metti il sugo, metti la besciamella? Faccio così, l'estratto di sugo, metto il formaggio sopra e poi metto la besciamella. E poi, tu non lo so, utilizzerai la puntina. Io invece utilizzo le fette di dolce sardo. No, allora, mi preparo il sugo. Lo faccio, non lo cucino proprio, se no altrimenti è un casino. Una volta che è quasi pronto il sugo, no? Diciamo che deve essere crudo, ecco, quasi crudo. Ci metto la besciamella in mezzo, lo giro bene, bene, bene, e poi una volta che è, lo porto, cioè pronto, e inizio a farmi le basi, ecco. Ci metto il sugo, poi faccio le lasagne, e poi ci metto mozzarella. Ci metto il sugo sotto, poi metto le lasagne, poi metto di nuovo il sugo, sopra la besciamella, poi metto mozzarella, prosciutto e formaggio, e poi così continuo, così. Poi alla fine ci metto il parmigiano sopra, la mia già non è preparata, ma la vostra è buona. No, anche io la faccio buona. No, io la besciamella la metto sopra, l'ho messo diversamente, la metto. Vabbè, il sugo lo faccio, e cosa? Metto il prosciutto, questa roba qua. Mozzarella no, io uso, non so se le conosci, le fette di dolce sardo. Sto usando quelle adesso, ultimamente. Poi vabbè, ci metto un po' di diodi, anche, quando un po' di cose, anche di resistenze, condensatori. chi sa canta per da grazia può buttare, non ti dico io. E un ghignarma. Grappa. Ma pure io già mi esce buona anche a me, la verità. Ha già regato una giovata, una teglia per me e una teglia si era giovata da mio suocero, si era ingribata a Sirane. Le fette cosa usi, quelle secche o quelle fresche? Che cosa, ho capito, sì, c'ho le lasagne. Eia. Quelle secche. No, io le faccio con le fresche. Vabbè. Moriamo di diversa. Tu lo assaggiami e poi vedrai come esce. Cappa. E pure la mia esce buona. No, io c'ho roba fresca. Lasagne fresche. Vabbè, ognuno la fa modo suo. Allora, non va messa così la besciamella, non la metti giù sopra. Insomma, ci va il formaggio. Deve essere coperta di formaggio. E già non credo, mamma come vai, mi dice mamma. Già non credo che non fosse così già. Adesso l'ho spiegato così, te l'ho spiegato. E non dico che ci vuole il formaggio, sto scherzandolo. Devi fare andendi e tienendi, io li faccio anche lo strato sotto, Cioè, io per cosa li faccio sotto, per non attaccarsi nuda. Li metto il sugo e il formaggio, già li faccio il coso lì, poi a fenderli la ripongo così, le metto la fede, li metto le fette, cioè le cose, le lasagne, e poi li faccio sugo, formaggio, li metto la besciamella tutta in giro in coso, e poi li metto il prosciutto, prima li metto le, come cazzo si chiama, il dolce sardo, che le vendono, sono tipo, rimangono tipo, come si dice, tipo quelle fette per fare il tosto rimangono, capito? Una cosa del genere, poi il dolce sardo. Ma facciamo due mosi diversi. E se non credo, il formaggio ne metto abbastanza, mi anche. Sì, ma ho detto, la facciamo in due modi diversi, la faccio diversamente, la faccio così come la fai tu. Io non le metto di besciamella così come la butti tu, la metto direttamente nel sugo, tutto il buco ci metto, no? Dentro il collo, la giro bene bene, è pronta poi per farmi le lasagne. Mozzarella, prosciutto, oltre la patata con la salsiccia, buona rita. Ci stavo pensando, vivo a me che vivo a vento mi ha fatto. Ma niente che dipende chissà cosa, ci vuole molta pazienza e appento mi puro, già lo sai meglio di me, se l'hai fatta già lo sai, ci vuole molta pazienza a farla. Tu è la prima volta che la fai? Io? E da giubbato basta al forno. Ho capito. Però facciamo in due modi diversi, sto dicendo, io la faccio diversamente. E poi alla fine si rubiglia il condimento, però ti dico che la mia non è secca per niente, anzi, è bella, capito, a chi da maniera, un bel niente la fate secca la fate. A quanti strati la fai? Finché non la vedo che è bella alta, non so quanti strati sono, ma per esempio guida, finché non la vedo alta, non la mollo. Io la faccio a quattro strati, che vuole entrare qua? Cappa, quanto è grossa la teglia? Avanti che vuole entrare. Quanto è grossa la teglia? Io la faccio così, la faccio. E poi all'ultimo rimango un bel po' di sugo, il formaggio, tutta la roba che vivo, capito? La voglio provare anche con la mozzarella, un giorno. Beh, va bene, poi l'ho fatta una volta, l'ho fatta che la mozzarella non mi è bastata, come si chiama? L'ho fatta con il dolce sardo proprio, dolce sardo, quello che vende dello spin, il dolce sardo, è uscita un bombo. Buona, molto buona, hai fatto il coso, dolce sardo a coso, tipo mozzarella tagliata. Sì, sì, per forza. Guarda, se vuoi prendere mozzarella, prendi quelli con la bustina verde, che ce ne sono quattro dentro. Già ho capito. Tanto tu vai alle Ruspe a comprare, no? La Tigrino. Non so dove vado io a comprare. A Corte Santa Maria. E vabbè. Antonello! Regolare, le balle, vai, Ciancadori, vabbè. Vabbè. Qua non la blocca, dice la rigore, era. Se aveva fatto l'Inter, aveva dato un rigore ai sacquata di Pagliacci. Assurdo, cara. Si aspetta 10 minuti, ma devi mangiare, Anto. Ma già mangiato, non era già mangiato. Ah, già mangiato, vai. Abbasso un po' la badumana, gli ho fatto un'altra dieta piccola. Ah, te l'hai preparata, recuta. La cottura è così in forma. Io sto a fare domani la posso bere. Come arrivo domani la bonga così appena. Ho capito. Ma c'è forno a gas o forno elettrico? Elettrico. Ho capito. Cosa? Ma... E comunque già andava in là. Ma io la faccio, che mia nonna la faceva molto buona, però io voglio provare, che io me lo ricordo ancora, mi devo comprare l'attrezzo e dovevo fare l'antica, non la bagna, il sugo, non fare l'antica come lo faceva mia nonna, con quell'affare, tra, coi pelati. Ah, quello non capisco. Le passa pelati. Ah, va via, un altro gusto, va via, il suo. Ti giuro, pomodori freschi. Quelli lì. Quelli da sugo, poi la rete la esce la bagna. Caffa. Voglio provarlo a fare come... almeno quei pelati, a vedere come ti esce. Io sto comprando le bottiglie. Però voglio prendere l'attrezzo e me lo voglio fare qua a casa, me lo voglio fare io con i pelati, sbucciare con i pelati, come lo fa zia nonna, che ancora me lo ricordo bene. Sì, io so, ci piace buono. Scappa. Aspetta, dove? Ma stavo chiamando. È fuggito. Aspetta. Dove fai il sugo con la carne macinata, vero? Vuole fatto così. Scappa. Ma lo sai che una volta, perché ero un bel stanco, l'ho fatto, mi ho messo un po' di mezzo, mi ha pigliato pure una carne macinata, rincoglionito, cazzo. E l'ho fatto con quel mezzo soffritto, che ci butto solo ghisso. Ma lo sai che nello sbaglio è uscita buona. Io faccio il sugo con carne macinata e mi sto soffritto. Questa carne macinata non è buona, no? Non vi gusti. E poi, no, io già la mesce è buona. Anche Maria già la fa buona. Scappa, adesso è un po' che di ziota. No, meglio mi sto soffritto. Pure io uso quello. Una volta me ne sono dimenticato, perché ero stanco, ero, l'ho fatta, ma era un bel tracco. Non so che marasorte. Beh, lo sai che nello sbaglio, me ne sono accorto dopo. Nello sbaglio è uscita buona lo stesso. Sì. No, cosa ti hai mangiato, pure? A me piace un sacco la pasta al forno, piace un bel... E pure a me. Sì, è buono. Mamma mia. Stanco anche. Cosa? Ho detto stanco, sì. Ma oggi stasera non ho fatto nulla. Stamane l'hanno fatto un burro. Vabbè. Poi d'estate, quando arriva il caldo, c'è... come si dice? C'è... molta calma. Già lo so, già. È molto caldo. Ah, ma come andare a mare? E va a calomella ancora, no? Già non credo già. Ma comunque non è, non ti credi che stiamo lavorando a gonfie vele, stiamo lavoricchiando, stiamo. Vabbè. E cosa vuoi fatto? Un casino. Ma troppi rompi palle, bisogna in giro, ma dai. Troppa niente, più c'è strada. Lo so. La sua quanto costa la bomba la portata a casa? 24. Ma non si intende. E quanto? Quanto la portata a casa costa 27 euro? 27, ma la regaliamo a 24. Ma così intendi tu. Ti sei lamentato, sei andato a voi, ci ha pigliati la tua fatta pagare 24. Se vado io la pago 24 comunque. E l'hai visto? Fuis. Non ti fa lo sconto. 24 portate a casa. È impossibile. Se è possibile, se vuoi sentire io, perché è impossibile? Pagando la compareggio che te la rega a casa per vedere lo scontrino, mi fa strano a me. Siccome non ne fa mai ricevuta, no? Non la vedi quasi mai. E non metti in ghiaccio, ne sono fatti i suoi. Invece, se veniva a prenderla, quanto è? 23. Ma comunque lui prende 3 euro per consegnarla. Aspetta, ma che 9, 3 euro? No, fuis. No, è 24 presari che sono bassi a 2 euro per la giovinta. Forse la vende più cara a casa. Comunque non ci può lo sconto, pure non lo so. Invece Nannis mi sarà da... se va a prendere l'altro 21 o 22. Ma non si può travagliare, mi sei miserabile. Ma sono miserabile, ho pagato nulla, ho pagato operai, nessuno. E poi ti comporta negozi, ma di che l'operai lo pagano i me. Ma lascia perdere tu. Cosa vuoi ti dica tu? Se la prendi bussi, io ando in via a poco poco. Infatti se la vado a comprare a Nanni mi conviene di più, a poco molto, molto di meno. Miserabile, hai visto? No, no, non è così lui. Non è così, perché tu devi anche guadagnare dalle bombole, ci devi anche guadagnare. Anche chi ci sono bussi non ne ha fatti nulla, ma ne ha su travaglio e cosa. Cioè, se avevano dovuto fare solo un bombolaio, a niente non ne ha fatti nulla. Se avete dovuto fare solo un bombolaio, vedrai che non avete ne fatto queste cose. Devo sapere come te lo paga pure l'operaio, Dio mio caro. Se guadagni così poco, tu non puoi pagare uno stipendio. E le cose si stanno rovinando per gente che la pensa male. Dice, ma a me non me la fotti nulla, vabbè. A mio non ne ha fotti nulla, però il problema è questo, che magari qualche uno di chi ti diciamo a travagliare, dopo non ti paga e voglio vedere se ti ne ha fotti. Hai detto, ma ti dico questo. Vediamo. Sarà messo qua. Aspetta. Il mondo è sbagliato perché tutti non ne ha fotti nulla. Perché ci rimette e ci rimette. Il problema è quello. Perché quando tu gli va a solo la sicurezza, gli giri, paghi i contributi, cioè tutto quanto, eccetera, eccetera, paghi l'OK, paghi l'ISO, paghi l'occasione della macchina, non puoi guadagnare così. La gente, veramente, io non ho parole qua. Ah, cioè. Mi ha fatto il volantino, comunque la vendono molto molto meno loro, non so perché scappa. Ma sai che è liquid gas, però lui non le prende a Sassari, il biglia da solo pure il biglia, capito? Perché ha un parente lì che gli dà le bombole, gli dà. Alla liquid gas di Sassari non è neanche registrato lui. Allora da 15 costa, 27 se vuoi prenderla tu, o 30 consegnata da loro. Di Mariuccio. Ma le biglia da Sassari mi. Invece da 10 costa, 19, se vuoi prenderla tu 22. Cazzo. qua lasciamo perdere, va. Anche se qua chi si abbina in culo, se ne prendono due noi li facciamo allo sconto, li facciamo anche noi, se ne prendono più di una, però dico una cosa, cioè non ce ne frega più niente tanto, perché tanto è inutile stare a lavorare, ti ammazzi di travaglio e boh, e poi non ne capi nemmeno di dinappa a pagarti l'affitto. No, basta, e se ne presi in giro, basta. Allora, aspetta, qua c'è un nuovo coso, da 10 costa 22, è portato a casa 25, da 15 costa 32, portato a casa 35. Ah, aggiornato, se. 22, 25 portato a casa però, se va a prenderla da lui costa 22. No, pure la noi, 23, 1 euro in più, no, ah sì, tanto la stiamo vendendo, 2 euro in più la stiamo vendendo, con la 10 siamo quasi uguali. Vabbè. Vediamo su qua di quando è, no, allora dicembre costava 21, è portata a casa 24, poi c'era 30, da 15, 30 euro, è portata a casa 33. E come cazzo mi guadagna? Tutta. Se la vendi così vuol dire che vi guadagna. Poi quella 25 costa 48, portata a casa qua 52. Ma non è così, Luca, se ti posso vedere i breci che va per un'ora, ti assurdi. Dico, come ti cazzo fate che sta guadagna? Cioè, ma stai scherzando o cosa? Adesso mamma, siamo buffonendo, io vi guadagna nulla, non ne ha fatti nulla, e non per ballare l'asse. Mi sono andato avanti, guarda. Già lo so, già. Signadua. Oh, paro capibone. Noi a girare soldi, basta, cioè. Anzi, quelle da 10, guarda. Ma se sarà la differenza un euro ci sarà. Cioè. Ma, cioè, la bomba verde non è proprio nulla, quasi. Cioè, non è guadagno. Cazzo, sono un mese passato, mi abbiamo la macchina in officina, esci di un tocco, cazzo, non ti dico. E la ragazza a vendere bombole così, ma non guadagna nulla, ma non ti innande. E non ha mai, ragazzi. Ogni anno ti pone 20 euro di gasolio, ma che c'è la macchina. E che stai sempre andando in torrente. Ogni anno che tu apri, vi pone sempre di nave, pone. Cioè, e una di buchi la gomma vi pone di là, e una di ghiaccio vi pone di là. Oh, ma chi c'è mo forza? Vabbè, questo come fa, purtroppo. Lui lo fa lui, si ci sprecare il target. Sono mesi passato, va bene, la macchina in officina, cazzo. E ci do un conto, cazzo, allucinante. E che ne baga tante queste cose? Cioè, se non guadagni della biglia Sarremi. Lo so. La gente vieni a fare macchine, vieni là. Ma tu dai che ti baghi, se ti senti un affitto a un mese, la puoi da pagare a noi, operai. Cioè, ve la pagare, cioè, un bel cose bisogna pagare. Ogni 6 mesi bisogna darsi vicino all'estintore, e sordinà. Ogni patente senza il sentore, deve andare in macchina, lo sai. E ogni mese c'è vecchio, me la bulletta da pagare, e vecchio da pagare, me ne vuole di name, eh. Ma che sa niente, non ti può stare un capo. Cazzo via, mi si blocca la mano. Mi si blocca la gola, sta parlando. Cazzo, io non è che sto dicendo per dirlo, no, sto dicendo perché è così, capo, ogni mese ce n'è una, me, cioè, o quasi ogni adipi, cioè, se ti capita già male, quasi ogni adipi ne è una, c'hai chisce, che dazio, non si basta a pagare bolletti, non si basta a pagare chisce, non si basta a pagare che dazio. Cioè, o non entrava a ricurare, e a me che avevo chisce, cazzo, che sono tutti abusivi, e dovevamo le chiese, 30 abiziani, non si può manco di nimmi. Cioè, se andano avanti, che andano a controllo, non mi dice a tutto, mi ha rosato. No, mi da fulla di poco, non entra la pizzeria. E a vedere, non manco in chi vi pura è dopo tenirle. Io un giorno ci sono entrato, gli ho visto dentro la pizzeria, le bombole. Erano in chiavi, erano. Devi avere anche il locale adatto, qui c'è tutto abusivo. Io con le gente la di chi passa il dorro dei carabinieri, commente un anno che sono andato a fare i controlli e hanno guardato se il posto era idoneo per tenere questa roba qua. E già canto di sarrane. Non hai manco un'idea tu. Sì, mi ha potuto a me, ma ci ho messo in busciacca. Vabbè, dicendo stiamo. E giorno che entrano i ghisci, come hanno fatto un controllo a noi, e a tutti quanti l'altra, non hanno fatto nulla, la cosa era tutto in regola, abbiamo la licenza per 1000 kg, quindi siamo abbastanza in regola. Ma la pana ha pigliato golpi, mi ha rosai. Cioè, ma viene poco porre, ci ha pigliato golpi. Un altro ha pigliato due golpi e niente, continuano così. Vabbè, se tu cazzo mi ci sei, cazzo siamo lollo, cazzo. Forse noi siamo uno degli unici che possiamo ottenere più bombole di tutti, uno tra gli unici. Vabbè, ma prima sto andando in bagno giù. Così porta a te, io dai. Vai, ma con vostro la luce. Sì, va. Hola, chicos. Luca? Beh, la mattina la fa, ma tu. Già non credo, via. Senta un minuto, eccomi qua. Io che mia voce deve a se farà. È divertente questa casa. Sei fuori. Oh, che appagato. Vabbè. Sto bene con la voce, poi mi sparisce. Così è. Papà, chi c'ha di chi che va giovedino? E sai come ti è fatta lui? Non è come questa che c'ha la scala bella, chiocciola, cioè non è proprio a chiocciola ma una scala normale. Chi dà in pendenza? E se va un gradino tagliato lascio no, un gradino tagliato lascio no. Quando ti sono cazzato a piazza della staffa della televisione, ogni amare di venga, se non sei attento in chi ti tronchi un godo. Beh, ti credo, fa rudurone. A lui è abituato, quando non è affutti nulla, scappa, ed è abituato così, eh. E poi sta attento qua, è una bacchia invece, è molto meglio. Beh, questo è bene, no? Sì, che sto bene. Sto benissimo io. Allora, più sa meglio di te. L'importante è che io sia con Sara e nobile da voi, me l'ha tenuta dell'altro a me. Allora, fai bene. Quando ci sta bene, va bene. Quando ci sta male, non va più bene. Cappa. Ebbene, non era la mia vita, no, io... Cioè, io... non era più la mia vita quella, no. Io sto bene con Sara, sto bene, perché è giusto che sia così. Beh, ognuno sta bene con la propria donna a fianco, Scappa, quando siamo qua, dice, non fate male, no, si sta troppo bene qua da soli. Stiamo tranquilli, ben murughiti e biasi, e non ci deve dire niente nessuno. Sei brutto quando sei con genitori in casa, mamma mia. Vabbè, lo so, purtroppo è così. Vabbè, io sono in camera mia, a me non mi disturba nessuno, perciò non è che mi posso lamentare, oh, mi sarei voluto proprio solo, no, sono più tranquillo, faccio quello che mi pare mi piace. Già lo so già, ma io e Sara ci troviamo non meno di più, quindi, ma a se passa o meno, non me ne ha fatti nulla sinceramente, ho passato tanti anni che sempre non ero mai d'accordo, non ero in certe situazioni, se permetti io, cioè, ho trovato la donna che io voglio bene e credo in lei e siamo bene assieme, la verità lui. Non posso dire nulla. Beh, non mai saluti. Se non l'avresti detto questa cosa, ma. Capa, no, fa benissimo qua. Poi si vede che è brava Sara, niente da dire. Non è perché lo sto dicendo che è perché è con te, è la verità. Capa, sai, qualche volta ci sta che ogni tanto qualche disguido. Ci sta anche nelle migliori famiglie. Qualche cosa, ma alla fin fine va. E va un po' guidi per la mia cugnata in casa, a me ce n'è andata a troppo bene ci sta. Giusto così vuole, allora. Quando uno sa bene il buon punto. Scappa. Quando non sa bene è un casino. C'è gente che non supporta la moglie e quello e quell'altro. A me non mi dà fastidio, no, la verità. Ci troviamo abbastanza, vabbè, andiamo in comune accordo. La verità, no, non posso dire il contrario. Ecco com'è. Purtroppo esistono gli alti e bassi in un rapporto di coppia. Che cosa così, no? Già passa. Vabbè, certo. Io con Maria sono entrato nel settimo anno. Ehi, caspita. Che incomprensione ne ha tanto, ma già passa. Cosa vuoi fare? Puzza, cosa vuoi fare? Intanto. Cosa vuoi fare? Scappa. Ma l'importante è che ci si fa d'accordo in qualche maniera. No, secondo me non riparerà bene, ma di molto non si arrabbia e cosa, però alla fin fine se uno ti vuole bene e basta. Se ci sei così tanto tempo vuol dire che c'è che hai creduto in lei e lei crede in te. Beh certo. Parole sante, via, povero mondo, mi ha perso la guerra, ragazzi, io butto il telefono. Tanto lui, dice, mi prendo un'altra donna, ma non sai mai quello che lascia, quello che trovi me. Anche oggigiorno, più che altro bisogna di me. La gamma pezzi, già mi hai capito. Un po' di bocchi gazzi bisogna in giro. Io so, mamma. A me non mi interessa. Ma ne manca a me, perché è inutile che un bel è bella, sì, ma è inutile che sia bella, ma forse di gorra, dai, no che ha posto d'orra. Lascia perdere. Lo so. Scappa. È sempre quella la ragione. No. Anche se ho mangiato faccio una fame. Vabbè. Ma sto un po' a dieta, va. Scappa. Sì. Un po' di dieta ci vuole. Ogni tanto un po' di dieta. Scappa. No, io no, non mi interessa. Che cosa fa la dieta? Beh. Vabbè, tanto bisogna tenersi anche un po' al regime, no? E se va a pensare a mangiare. Ma poi di me, bisogna tenersi al regime, che poi arrivano i acciacchi col tempo. Così, pure lo usi una puttina nuda, va. È un casino. Già lo so, già. È così. faccio una gara e mangiamo un poco di... che ti faccio quasi un poco di garra russo. E dico, quando uno ha, che è troppo grasso, nel senso che ho troppa pancia, è un casino. E poi ti arrivano i problemi, capito? È meglio... Sono contento di avere il Covid, comunque. Se riesco a buttare un po' di giù di pancia è meglio. Vabbè, pure quello ci vuole. Sì, se sennò pazienza. Ciao. Parecchio, sono uguali senza attendirlo. Gappa. Così è. Purtroppo me ne voce. Pure a me già mi piace, ma non sono neanche esagerato. Mi piace mangiare, ma non sono esagerato. Sì, vabbè, come gli abbiate mangiare? È un bel puro. Bisogna fare, ma poi certi periodi mangia un po' di più uno. Dipende. Oggi allora mangiamo una bella pizza di chissà buona, ho trovato buona quella di Bruno, una vacca truzzi mi ha fatto. Perché è particolare come pizza. E adesso appena guarisco, se ce l'organizziamo andiamo, ce la mangiamo. Aiu. Che appagato, appena guarisco però. No, quel problema. Io per l'ATS risulto positivo al Covid, perciò non mi posso muovere a casa. No, non so già. Praticamente mi hanno arrestato per 10 giorni, là. Con questo cosa vuol dire la galera? Vabbè, non è gusti quante sono buia, ma comunque. Buia. Ai domiciliari. Sì, sì. C'è la partita. 1-1. Ma come sono fallo di Juventini, cazzo, per carità. Interessa. Ma un meccanico che mi ha visto da fuori, se mi è interessato. Io sono Walter, lo conosce. E gli altri si attaccano con Daniela. Gappa. Tu non la fate a Tarosia, tu? Ma sabato zecco di Brenotalla. Ma se dal sabato, una volta la prima possibile, vai sul sito. Se mi dai, mandi da tappa, te lo faccio io. Ah, va bene, dai. Ma bisogna farlo subito però, subito, no, agitando. Io aspetti più ci passa il tempo, mi hanno, mica ti chiamano loro. Ah, va bene. Mi chiami, so prima mi mandi i dati, che poi tanto mi serve il codice che ti mandano al telefono, mi devi dare quello e poi darti il vaccino. Vabbè, domani ti chiamo, dai. Sono a casa intanto, non c'è problema. Prenotemo, ma lo posso prenotare a febbraio? No, ma tu, lo riprenotare adesso. Ma io adesso in questo mese non lo voglio fare. Non si può fare. Cosa, scusa, tu cosa hai detto? Non si può fare per non farlo più là possibile. Ah sì, però devi iniziare già da adesso. Solo trovi posto. Vabbè, domani ti chiamo e te lo dico mentre fallo. Sono delle date, no? Capito, da seguire. Non è che puoi fare con ci ripeto a te, no? No, vabbè, però io questo mese non lo voglio fare. Ma perché non lo vuoi fare? Perché non mi interessa farlo questo mese. Non sei uscito. Ho detto che ci sono le date tanto. Lo so. Vediamo un po' di spostarlo più là possibile. Ma te lo sto dicendo io, ho capito. Capa, tu mi guardi la lata e dico se va bene o non va bene. E io? E andato a mettere un gatto di terza dose. Gappa. Ma come ha tavato come pensi più? Tanto poi ci arriva la quarta, la quinta, la sesta, la settima. A Santo Vassiano si andano, animi. Ti vuoi far morire? pianto, veniva fuori un'altra quarantina di massoni, ma 400 massoni, si cos'è? Mi hanno mandato un messaggio, mi hanno mandato di Chizzo che non so come. Ah, ma senti, non sono in piazza di gioco. Già lo so, già cosa ha detto. Già, che ne parliamo un giorno in verticale, ne parliamo. Ma una fottina da su cui si andare, perché non è nessuno. Scappa. Ha detto sì, ha detto. Però io da quanto lo vedo, Pacquarino non è Agussi, secondo me non è così come lui. È tranquillo, è alla fin fine. Perché è in gamba. Pasquale è in gamba, no, è. Ripete comanda. Ripete comanda, fai quello, fai quello. Cazzo la cazzo ci fai, travaglia, fai che ci fa. E lavora. Invece è tutto l'incontrario, di dire che le Dugin era sempre brutto il senno e non travagliava. Se la cucina utilizzata non l'avevo fatto in 4 mesi o 6 mesi. Vabbè, a buono di con l'uccioma e tal, non so, come si sa che cosa. Come si chiamava Ghiccio? Aveva un cognome strano. Dici che stesso un casino con quello lì. A Casanova. Con Casanova. Vabbè, Casanova erano per coglioni, era esagerato, ma sciopero. Ma non era così malo, non è manco. No, erano per coglioni, un bel. Più ne fate meglio, capito? Ma lo comune, adesso nel geometra. Più fate a va meglio la baetto, capito? Vabbè, però so che la denuncia nei cut, non so che cosa è successa. Hanno bucato tutte e quattro gomme della macchina a Casanova. Non so già. Vabbè, pazienza. Cappa. Lugia, già lo conosco bene, so quello lui casini che ha combinato da noi e tutto, l'abbiamo aiutato, ma non è una persona da aiutare, secondo me. Lascia perdere. Già ti racconto qualcosa. Ma io lo so. Un giorno a Giuma non la si nasce. Ma non vuole un ciaffo, ragazzo, vuole un mezzo ciaffo, vuole. Ma guarda, non vale niente, ci vuole fare vale qualcosa. Era il vizio delle armi, Santa Canese, ma niente. Cappa, già lo sai che hai messo in paventati con Ghiccio. Un Ghiccio che ha bucato al monte, da un letto. Ah, non lo sapevo. Vabbè, buon per lui. Ma ripigliato, se. Ah, boh, non lo so. Ha bucato un voce. Interessante. Non ho messo viso. Vabbè. Buon Ghiccio va. Va a Rovizio, va. E là io mi deve ragare già. Sì, a casa sua, con un secco. Ah, poi con questo, se non è reggi alcol, larga PC, non ha proprio cosa di farla. Mi interessa la tua. Non me ne può fregare di meno. Vabbè. A me no, mi piace fare queste cose. Tengo molto, logico se mi fate incazzare, logico che rispondo pure io. Fate incazzare il cazzo di bacio. Ma a me non mi piace questa cosa, non andare. Ma lei me l'attacca di pure fratello. Io fratello. Gianni. Forse non mi ricordo. Ma non sono presente. No, Gordone, non l'altro. Sono tutti i minoriti, so. Cappa. Mi rincazzendo, è meno. A chi me la rompe nelle cattole. Vabbè. Meglio che si evita questa cosa. Che poi fa una cazzata. Abbiamo in armonia tutti amici. A Sardegna ho un circo che era presente appena che anche tu l'ha detto, ecco, è toccato a tu, gli ho detto, non ti preoccupare. E non sapeva che lo pigliava in giro da voi. Ho detto, meglio non parlarne qua. Di che cosa? Di niente. vabbè, quello che è successo sabato, sabato scorso, era un po' caldo, vendevo il dogo, e ha detto, prego, canta tu, gli ho detto. Vai, fammi sentire come canti. E chi è questo qua? Da Brisbane, è Marco, Chi sa che si muove, non lo conosce. Non mi ricordo il nome adesso. Salvatore? No, l'altro. Che tu fa vedere così. Peppino? Se non me lo ricordo. Infatti. Già ti mando il video. Ma ce l'hai? Sì. Cantato? Cantato in Zaibate. Aurelio? Aurelio allora. Non mi ricordo, aspetta, te lo mando il video. Allora te lo mando. E poco può essere. Mi mandato l'uomo. A Belen. Si chiama Belen soprannome. Ciao Franco si chiama. Ma cosa è un giammale balletto? A chi si crede di petto? Martinandi! È già Franco balletto. Cazzo, ma è tutta una risata. E dopo i provani andando. Ma poi cazzo canta e tu Dio mio caro. E tu Giuseppe si muove le mani in capo. Mi sa un infarto mi. Tanto non fuma a bocco. Poi la smessa, la tranca, questa te la fumendi a me viventi. Ah, però è bravo, quasi così. E tu canta sempre io vagabondo. Allora, suona la chitarra, intende. E vieni che te un faccio. Tu io, carità. Gianfranco Belen. Fate. Ma già mi conosce. Ma so tutta una gionfa che vedrete me. E che a te ne vai di solito quando vai? A mezzanotte. Come? Quando me ne va? A mezzanotte sempre. La verità, ci troviamo bene, la verità. È pulito me. Ho detto a mezzanotte vai via. Eia. Cos'è pulito? È pulito come posso, non mi girato in balle. Intanto anche quella succede. Però, cioè, tranquillo. Ecco, ho tagliato i posti, mi sono trovato molto bene. Da cosa no? Da Marco non mi piace assai. No, perché? Ma non mi attira. E conosci una cosa che stava bene. E la Maria. Ma chi è quella che aveva la panetteria un periodo lì in via Rosello? No, c'era il circo, la tentazione. Vabbè, però sai quella che ti sto dicendo io, un periodo ci ha avuto anche vendere per pane in via Rosello. Buono, lo so, vendere per pane, era di unicità un circolo. Scappa. Se me la fai vedere te lo dico subito. Adesso ho fatto il telefono, ma è quando la foto, ricordamelo. Eia, sicuramente è lei. Non lo so, tu ti devi una palla, non lo so. Scappa. Ma non ha più il circolo, chissà. No. L'ultimo che aveva aperto è quello lì in via Bugino, ma ci sarà Marco. Bravo, è serrato. Ha avuto problemi. Signor Guru va a fare Juventus, grazie. Segnatola. No, gliel'ha parato di nuovo. Adesso mi. Adesso vuole rigori. Addirittura. Sì, se poi andiamo, sì. Ma sicuramente c'è Edda, l'ha messo un poco di cose. Ma a me mi ha detto addirittura che c'era via la Marmora un giorno, poi mi era trovato in via la Marmora. Poi non ho saputo più niente dalla volta. Che il periodo c'era circoli chiusi e c'era questa panetteria, secondo me è Edda. Non lo so, Anto. Io l'ho conosciuta al circolo. Allora, è così. Che era una delle mogliere di chi si che va bene il nostro circolo, così. Non lo so, Anto. Non la conosco bene. Io perché l'ho conosciuta al circolo, la tentazione. Stavo bene, andavo lì tranquillamente. da Dio, stava benissimo. Quello prima piatto aveva il rosetto. Sì. Ah, pare che tu la cantina ce l'hai pigliato. E ti abbiamo andati la cantina. C'era un campo. Me lo ricordo che c'era là tanto, questo com'è entrato? Allora c'è la cantina, c'è il parco lì, abbiamo un tello, e poi c'è la plattamona, che ho scritto. Non è la plattamona? Il chioschetto lì dentro il villaggio. Davvero? Eia. Ma adesso da fare già. A voglia. Ma lui conosce, tutta la mazzata. Ma che dire? È che non lo so. Non li fate nel karaoke in Kiwi, se no ci era andato. E dopo? Alla cantina. No, non è fa adesso karaoke a tu. Quelli non è molto grande, è piccolo come circo. Già, non so già. È un buco. Chi ci frequenta? Qualcuno lo conosce? Con io no? No, non credo che conosci qualcuno lì. Cioè, ma che vuoi fare un burro da mutandone? Ma ne fa karaoke? Non lo sta facendo in questo periodo. Anche io ci faccio un salto ogni tanto. Prima ci andava a Carlo, ho fatto di Marina, ma ci andava spesso a Michele. No, già si sta bene anche lì, Poche volte che ci sono entrato sono stato bene. È tranquillo, poi con Michele, perché non è mai entrato a Mondessa. Ma è tranquillissimo Michele. A me lo fai conoscere, cuocio, non ha vita cuocio a Michele. Chiappa. Che cosa che andrebbe a Rosello che è successa? Vabbè. La gente non si sa divertire. No, lo so. Ancora uno a uno, so. Io non l'ho conosciuto in via Rosello, mi è entrato una volta. Ma poi lì ogni tanto vado in via La Marmora. Mi capita qualche volta mi è capitato qualche volta di andarci. E dico, tutte le volte che sono entrato sono stato bene. Beh, uno si trova bene. Va bene. Se non si trova male un casino, capito? Ma è già un tipo che si guarda in Repitalia. Già lo so. Già lo so. No, è macro. Ah, poi a fa bene a fare così, a Mondessa meglio ci mettiamo fuori. È sempre un'incognita. Oggi non vedo più passato da Costantino. Sai cos'è l'altro? A me la birra piace più d'estate. Sì, la bevo d'inverno poco, ma quasi niente. Ma di più la piace di più. Lo so. No, quando basso la mamma, il birra non c'è come vende, che un campare. Ma tu trovi di pagare 2 euro, 2,50. No, 2 euro, ma tutti così. Yes. No, già, giusto per non pigliare la birra, mi. Sì, questo va in un culo di Juventini micidiale, va. Cioè, va. Se un ballone scende di capo. No, dove va? Yes, avvicinate. Io già ho già morto, mi ti cocco, cazzo faccio un sonno, mamma mia. Dai, ci sentiamo domani, buonanotte. Ciao, buonanotte, a domani, ciao. Ciao, buonanotte, anche gli ascoltoni.